Fino al 27 giugno 2006 anch'io partecipavo al Plan Tour delle 14. Rispondevo delle anomalie di processo e di fornitura al direttore di stabilimento, cercando di essere esaustivo ed efficiente. Non era mai abbastanza. I direttori cambiavano come trottole, arrivavano dal Portogallo, dal New Mexico o da altri luoghi immaginari. Erano preoccupati degli aspetti estetici, erano concentrati su fatti secondari. Non avevano alcuna competenza tecnica specifica e non avrebbero potuto fare osservazioni più concrete e mirate alla sostanza dei problemi. Il potere vero era nelle mani dei vecchi porporati, gente senza scrupoli come Marani e Lupi o come Mandracchia, supervisori dei settori aziendali più strategici. Marani è della vecchia guardia. La sua mansione, a leggerla di fianco al suo nome nell'elenco telefonico aziendale, è impossibile da decriptare. Non è un essere biodegradabile. Anche lui, come Garnielli, ha resistito a tutto, galleggia da secoli, non invecchia. Nelle foto aziendali di gruppo ha sempre un aspetto identico, mentre le altre comparse in posa o spariscono o appassiscono anno dopo anno. Ha seppellito baroni che parevano immortali, ha disarmato gruppi di consulenti pagati per fare fuori lui e quelli della sua specie. Pare digerire a fatica le nuove linee guida, sembra inadeguato ai cambiamenti, poi si integra, si mimetizza e riprende la guida delle operazioni. È rude, rozzo quanto basta per farsi rispettare e capire anche dagli operai più disincantati, che sono razze in estinzione. Non riuscirei mai a spiegare ai miei colleghi come, paradossalmente, proprio gente come lui condanna questo luogo all'arbitrio e all'ingiustizia. E sono certo che non sto uscendo vincitore nella sfida di convincere chi mi sta leggendo. Non trovo le parole per definire una multinazionale provinciale. In realtà il segreto è quello di estendere privilegi incomprensibili a lavoratori di bassa professionalità che mantengono il controllo sulla truppa che mangia arancio gelato in trincea. Ma la verità è che non ci capisco molto. Forse il segreto è proprio quello di non seguire alcuna logica, di improvvisare. Certi che una buona stella tenga assieme pezzi buttati a caso. Di recente Marani ha concesso un premio di 500 euro a 3 persone, senza alcun motivo. Non hanno meriti né colpe. 3 persone a caso. Non sono facilitatori, non sono capobranco naturali, non hanno incarichi particolari. Lo scorso anno era stato affisso in bacheca un documento che riportava i nomi dei dipendenti a 0 ore di malattia e i ringraziamenti della direzione. Una iniziativa che conteneva in sé aspetti deprecabili, ma che si poneva l'obiettivo di dare un ordine di merito a un luogo che chiede solo cieca dedizione e nessun talento. Con questo premio di 500 euro random siamo all'astrattismo puro. Potevano andare in ordine alfabetico o per estrazione, invece i 3 nomi sono usciti dal nulla. Un'iniziativa della direzione, né generosa né crudele, un atto senza logica, spiazzante. La mancanza di senso ti fa sentire impotente nelle mani di un destino beffardo. Giordano Lupi ha una calvizie da esubero testosteronico, una peluria nera che gli invade le braccia e gli esplode dal colletto della camicia. Il Lupi domina l'ufficio spedizioni, un luogo infestato da femmine isteriche, identificato dallo stesso Lupi il rettilario, le cui mura di plexiglass non riescono a spurgare né a contenere tutta la negatività che il luogo sprigiona. È un sito contaminato da demoni, sorto di certo su un cimitero etrusco o qualcosa del genere. I preti che hanno osato avventurarsi per la benedizione pasquale sono stati colti da malore. Le impiegate devono assolvere solo funzioni decise altrove, ricevono input, per lo più redigono bolle di accompagnamento, solo un anello inutile e necessario della filiera. Nessun valore aggiunto. Possono rivendicare la loro identità solo creando piccoli intralci procedurali. In generale, rompono il cazzo, perché non possono fare altro. Non possono essere altro. È sempre questo il tratto dominante della vita in questa azienda. Tutto è fatalità, meccanismo incagliato, colpevole innocenza. Nessuno riesce a risalire la corrente in senso contrario, a distinguersi, a uscire dal personaggio assegnato. Mi credete dunque ora se ancora una volta vi assicuro che sparerò senza mirare nessuno in particolare? Magari chiuderò gli occhi e seguirò le voci o li socchiuderò cercando di farmi bastare ombre sfocate. Una femmina dell'ufficio dopo anni di vessazioni si era decisa per il licenziamento. Il solito mobbing feroce tra pari livello, la morsa che si fa di giorno in giorno più stretta oltre il livello di tollerabilità. Il Lupi non si era mai intromesso nelle dispute interne all'ufficio, come tutti i capi crede nella selezione naturale darwiniana. Mai tentare di salvare i capi malati che il branco isola. Il branco ha una sua intelligenza pratica e istintiva. Il branco non sbaglia, segue flussi energetici naturali. L'ultimo giorno le altre impiegate avevano pensato di farle un regalo di addio che la donna aveva sdegnosamente rifiutato. L'incaricata della cerimonia, che si era trovata con l'inutile pacco regalo schiacciato sulla bocca dello stomaco, era esplosa in un pianto disperato. Erano seguiti pianti in sequenza, isteria collettiva. Lo spettacolo si era protratto per una decina di minuti. Poi la cute aveva riassorbito le gocce di acqua e sale. Le femmine erano rientrate in ufficio e avevano ricominciato a redigere documentazione relativa a merci in partenza e in arrivo. Alcune streghe tengono buffi pupazzi sulle scrivanie. Per lo più rappresentano piccoli rapaci, civette e barbagianni che richiamano l'età infantile, quando tutti si era un po' meno inquinati. In realtà sono oggetti feticcio e nelle fasce orarie più misteriose vengono utilizzati per inscenare curiosi riti. Gli occhi dei pupazzi prendono vita. Una dentatura aguzza minaccia gli infedeli. Svolazzano nell'ufficio e sbattono contro le pareti quasi trasparenti. Il rumore di questi impatti è quanto di più ripugnante possa capitarvi di ascoltare. Ho visto materializzarsi dalle fotocopiatrici fogli A4 illividiti da macchie di toner, volti e figure inquietanti. Sono spiriti aziendali imprigionati che vagano senza requie e che ancora chiedono pietà e un riposo sereno. Ex dipendenti silurati senza colpa, vittime di ingiustizie, di sacrifici inutili nell'ottica del risanamento doloroso ma necessario. L'ufficio spedizioni è un cratere che erutta sangue di mestro incandescente. Le sacerdotesse sono facilmente irritabili e di potenza inaudita. Nonostante le loro mansioni sembrino piuttosto umili, il loro ruolo è determinante. Sono le sentinelle. Questo luogo è un vortice di antimateria dove la nostra azienda comunica con il mondo esterno. Solo io ho capito i segreti dell'ufficio spedizioni. A nulla sono valse immensa le mie dettagliate spiegazioni, i negazionisti sembrano averla sempre vinta. Ho provato a nascondere dei santini tra i raccoglitori posti alle spalle delle femmine in oggetto, San Cristoforo e San Tommaso in particolare, ma ogni tentativo di esorcismo è parso vano. Le donne delle spedizioni sono sempre più forti, non invecchiano e non sono mai state giovani. Sono identiche alle loro madri, lo sono sempre state. Quando militavo al controllo qualità e dovevo contattarle per dei resi di scarto, mi facevano sempre sentire inadeguate pasticcione. La mia scarsa avvenenza contribuiva a complicare i contatti. Le sacerdotesse hanno impulsi sessuali mitigati dal lavoro, ma frementi e sotterranei. L'aria dell'ufficio è impregnata di estrogeni e calore vaginale. Sono donne molto fertili che hanno figliato a ripetizione, seguendo un'alternanza programmatica tale da non lasciare l'ufficio incustodito. Almeno due sacerdotesse storiche devono presidiare il sito. A ripensarci non le ho mai viste con il ventre gonfio. Gli uomini che le hanno sposate oggi sono esseri sfibrati e umiliati, dediti al lavaggio dell'auto e al calcetto. Portano le corna con grande dignità. Le sacerdotesse, a scadenza regolare, si concedono a demoni molto virili. La loro prole sarà sterile, condannata da una maledizione e da un patto scellerato a farsi il ramo secco e ultimo della stirpe. Mandracchia era l'uomo della rete distributiva per i prodotti aftermarket, il vampiro. Egli era condannato all'immortalità in quanto unico depositario di contatti commerciali vitali per la sopravvivenza aziendale. Mandracchia spesso fingeva malori. Almeno una volta alla settimana veniva portato al pronto soccorso dagli uomini della manutenzione. Durante la sua assenza, gli altri porporati riuniti in seduta plenaria pestavano il pavimento dell'ufficio del Value Stream, mani dietro la schiena e sguardo basso, mentre i tecnici del CED smanettavano il PC del vampiro per capirne i segreti della rete distributiva. Impossibile intuire le password escogitate da un essere così imprevedibile. A quel tempo i rapporti umani erano ancora fondamentali. Mandracchia vantava amicizia intima con un numero infinito di meccanici ed elettrauti esclusivisti del nostro marchio. Era bene non perderli, non lasciarli nelle mani della concorrenza, e lui se li coccolava con interminabili telefonate. In realtà le sue capacità erano sopravvalutate, esaltate contro ogni logica. In quegli anni non esisteva concorrenza europea nella nostra fascia di mercato. Era opinione comune che i suoi disturbi fossero simulati. Gli aneddoti su di lui erano sempre beffardi e benevoli al tempo stesso. Nessuno metteva in dubbio la sua figura professionale. In realtà l'ulcera era vera. Gli procurava fitte che lo piegavano a metà. Io stesso ero stato testimone di un attacco che gli aveva stropicciato i lineamenti del viso. Eravamo soli, a metà corridoio degli uffici. Mi aveva guardato e si era portato l'indice al naso, poi si era ricomposto e aveva raggiunto la portineria. Qualche anno fa ero penetrato nel suo ufficio. Le donne delle pulizie lo avevano lasciato aperto e si erano allontanate per prendere del detersivo per i pavimenti. I cassetti della scrivania non avevano serratura. Sapevo cosa cercare, sapevo cosa avrei trovato. La busta con l'intestazione dell'USL. I risultati di un esame istiologico facili da decifrare. Era Marani a portare sempre il caffè a Mandracchia. Si sedeva sulla scrivania e iniziavano a conversare amichevolmente. Dovevano essere molto amici. Parlavano di cose incomprensibili, mercati esteri, nuovi sviluppi di business. Marani, a metà corridoio, tirava fuori una bustina dalla tasca della giacca e la versava nel bicchierino. Pensavo che le macchinette zuccherassero le bevande selezionando l'apposito tasto. Luciano Mandracchia è classe 1948, fine marzo, Ariete. Il mensile Astra dava le seguenti indicazioni. Impara a sentire le sensazioni del tuo corpo. Non sottovalutare le malattie. Dà la giusta importanza alle amicizie e attento a chi amico non lo è davvero. Sarai oggetto di invidia. Quando militavo all'ufficio qualità, mi rendevo disponibile alle bizzarrie sempre più degradanti imposte dai superiori, pronto a lavorare oltre l'orario standard senza retribuzione. Dovevo mettere in pari le mie cose, i miei carteggi inutili, una burocrazia sempre più barocca. Ecco il grande imbroglio. Erano riusciti a far passare il messaggio che in questo posto dovesse esistere qualcosa di davvero mio. Eseguivo degli studi capacità macchina sulla coppia di serraggio degli avvitatori utilizzati in linea. 50 valori in sequenza e il programma calcolava in automatico la capacità dell'attrezzo a stringere le viti correttamente nel tempo. Inserivo dati falsi. L'unico metodo in natura affinché uno studio capacità macchina risulti positivo è inserire dati falsi, con degli scostamenti dal valore ideale variabili, sì, ma non troppo ottimistici, tali da risultare credibili. Tutti lo sanno, ma nessuno lo dice. Loro sapevano che io sapevo che loro sapevano. Omertà. Il mio responsabile sapeva ma negava a se stesso. Non voleva sentirselo dire che quei programmi capestro accettavano solo il falso. Quando gli uomini degli enti certificatori facevano le visite ispettive, l'apertura di questi programmi mi faceva correre un brivido lungo la schiena. Erano minuti interminabili. Io sapevo che loro sapevano dell'imbroglio inevitabile. Era tutto basato sulla loro pietà nei miei confronti. Io cercavo di non essere troppo spavaldo. Anche quando le cose sembravano mettersi bene, mi mantenevo serio. In questi frangenti è buona cosa apparire umili e parlare il meno possibile. Se la nostra azienda ogni anno poteva fregiarsi del certificato del sistema di gestione della qualità, era anche merito mio. Questi diplomi sono affissi in portineria. Potete prenderne visione. Ci sono anche altri riconoscimenti, come il Certificate of Safety Leadership. Se le cose domani andranno come dico io, dubito che questo certificato verrà riconfermato. Compilavo checklist sui prodotti finiti deliberati come ok e in uscita verso il cliente. Avevo una mia identità ben definita. Non la davo mai per scontata. La tenevo stretta con i denti. Avevo una mia posizione, un PC e connessioni elettriche per collaudare funzionalmente i climatizzatori. Connettevo una centralina identica a quella che poi sarebbe stata montata nel cruscotto della vettura. Tasto verde premuto e partiva un reset del sistema. Era un momento molto bello e io rimanevo basito, ma concentrato. Iniziavano a muoversi gli sportellini della distribuzione aria a scatti, secondo le angolature esatte, gradevoli ronzii. Azionavo la ventola alle diverse velocità e verificavo la perfetta sigillatura del sistema. Poi dovevo dare un giudizio estetico, aleatorio e insensato, tenendo conto che tutto quel mostro, a parte le centraline di comando, sarebbe finito nel vano motore di un'auto. Ricollaudavo i gruppi KO dalla postazione di collaudo a fine linea. Dovevo verificare se le non conformità fossero dovute a errori umani delle operatrici, mancate connessioni o a componenti difettosi. Era un'attività che dava le sue soddisfazioni, ma ero arrivato ad analizzare fino a 40 gruppi scartati in un giorno e a smontarne 10 per recuperare le parti integre e scartare quelle inutilizzabili. Smontaggi, lavoro pratico, poi montagne di carta e di seguito tutto riversato su file Excel. Lavoravo anche nell'ora di pausa pranzo, quando le linee rimanevano deserte. Compilavo i file fino a orari indecenti, deriso dagli operai. La beffa finale era la voce sulla busta paga. Straordinario non autorizzato. Capite ora? Straordinario non autorizzato! Maledetti. Magari non potete ammetterlo pubblicamente, ma non vi sfiora ora l'idea che questo sangue possa non essere innocente? Ma non mi lamentavo mai. Comunque, molto meno degli altri collaudatori, sempre pronti a menare obiezioni per fatti irrisibili. Però state pensando che in fondo sono uno smidollato, che se avevo tutte queste ragioni avrei dovuto ribellarmi, che se avessi raccolto le prove, se avessi messo di fronte ai miei superiori l'evidenza dell'ingiustizia, si sarebbero ricreduti modificando la loro scelta. Denunciare il comportamento di Bellettini sarebbe stato atto di ignobile delazione. Ma il problema vero fu che io ero certo che il mio impegno estremo fosse limpidissimo e pubblico, che mi si riconoscesse come persona affidabile e integerrima, magari un po' imbarazzante e commovente, ma pur sempre idonea a correre sulla fascia per portare palla ai colleghi più dotati. Alla mia condotta, al mio esempio, non occorreva didascalia né commento. Non avevo necessità di urlare né di spiegare. Pensavo che dall'esterno tutto fosse chiaro.